GR24, il sole 24 ore. Monti, il governo è vicino ai dipendenti pubblici che rischiano di fronte alle proteste dei cittadini e sulla fase 2 dice siamo ancora in emergenza. Borse in calo, spread di nuovo alti sui timori europei in Grecia, sotto pressione anche Italia e Spagna. Vlatko Mladic alla sbarra all'AIA, l'accusa a Srebrenica nel 95 un piano premeditato di pulizia etnica. In meccanica c'è un nuovo indagato, il consigliere Bonferroni sotto inchiesta per finanziamento illecito dei partiti. GR24, ben ritrovati da Alessio Maurizi e dalla redazione. Mercati finanziari ancora alle prese con la debolezza della Grecia in vista delle nuove elezioni. Poco fa conferenza stampa del Premier Monti con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale a Roma. Monti che questa mattina aveva parlato della situazione italiana ed europea dicendo siamo ancora in una fase di emergenza. Ci colleghiamo allora con Andrea Viali che si trova al Ministero dell'Economia per questo incontro. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Alessio, è iniziata da poco la conferenza stampa che conclude la missione annuale degli ispettori del Fondo Monetario Internazionale chiamati a valutare come ogni anno lo stato di salute dell'economia italiana. L'Italia è sulla buona strada, ha fatto importanti progressi negli ultimi anni, ha detto il capo delegazione del fondo Reza Moghadam, il quale ha però aggiunto che resta comunque ancora molto da fare in tema di riforme. Il presidente del Consiglio Monti non ha ancora parlato, sta per iniziare in questi istanti il suo intervento, ma della nostra economia e della crisi il Premier ha già parlato stamattina aprendo sempre a Roma il forum della pubblica amministrazione. La situazione è migliore rispetto a novembre, ma l'emergenza continua, ha detto il Premier. Sentiamolo. Io non vedo però una distinzione tra fase 1 e fase 2. Se fase 1 significa gestione di crisi che comportano anche aspetti di emergenza, signori, siamo nel pieno di una fase 1. Vediamo che cosa succede in Europa, in Grecia. Vediamo qual è la preoccupazione principale nell'agenda del G8 che inizierà presto a Camp David. Senza citarla direttamente, stamattina Monti ha parlato anche di Equitalia, delle polemiche e dei recenti fatti di cronaca che hanno riguardato l'ente di riscossione. Sentiamo quali sono state le sue parole, poi la linea può tornare allo studio. Che la vicinanza e il supporto del governo sono incondizionati e costanti. Il fatto che membri della pubblica amministrazione siano chiamati ad operare con funzioni molto delicate, molto impopolari, e non significa che il rispetto che i cittadini devono loro sia diminuito, anche in una fase in cui è legittima una certa insofferenza dei cittadini. Così dunque Mario Monti. Intanto sui mercati spread italiano e spagnolo sotto pressione oggi e sulle borse timori nuovamente per la tenuta dell'euro e della Grecia che oggi dovrà nominare il primo ministro che traghetterà il paese verso le elezioni. Però vediamo qual è adesso invece la situazione sui mercati finanziari. Ben ritrovata Valeria De Rosa. Ciao Alessio, a te e ai nostri buongiorno, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Allora, prosegue una seduta con grande nervosismo, estrema volatilità per i listini questa mattina. Il peggiore in questo momento è Londra assieme a Francoforte, meno 0,88% la flessione per il FTSE e per il DAX, mentre Parigi in questo momento passa in territorio positivo e guadagna uno 0,20%. Questo vi dà un po' la misura di quello che sta accadendo oggi sui listini, inversioni di rotta piuttosto repentine. A Milano il FTSE MIB e il FTSE All Share sono in calo, il FTSE MIB dello 0,23%, leggermente più pesante il FTSE All Share che cede uno 0,4%. Sul listino principale il miglior titolo resta Finmeccanica che allunga il passo più 5,33%, in questo caso positivamente sul titolo il fatto che più poteri potrebbero andare al direttore generale Pansa e anche la possibilità di un arrivo nell'azionariato della francese Thales, mentre in fondo al listino il titolo peggiore resta Monte dei Paschi di Siena, qui il calo è del 4,88% anche per causa della trimestrale. Sotto pressione il cambio euro su dollaro, 1,2710 in questo momento, mentre per quel che riguarda il differenziale qui c'è una lievissima flessione, parliamo di 436 punti base, quindi comunque un differenziale piuttosto alto, ma appunto una flessione di 1,003%. Per il momento è tutto. Grazie Valeria, e adesso una ultima ora, una notizia per certi aspetti attesa. Umberto Bossi è indagato dalla Procura di Milano. L'inchiesta è quella sui fondi della Lega, se ne è parlato molto nelle scorse settimane, sono indagati con lui anche i figli Renzo e Riccardo. Ripeto, una notizia che era in parte attesa, perché si era detto che Umberto Bossi poteva essere coinvolto da questa inchiesta che fino ad ora lo aveva solamente lambito. E adesso però torniamo a parlare della situazione economica europea e della Grecia in particolare. Oggi dovrebbe esserci il nome del nuovo premier che traghetterà il paese verso nuove elezioni. Da Atene l'inviato del Sole 24 Ore. Oggi il presidente greco Karolos Papoulias nomina il premier per il governo ad interim che dovrà condurre il paese al voto. Elezioni che si terranno forse il 17 giugno e che diventeranno un referendum sulla permanenza o meno del paese nell'euro. Se dalle urne dovesse uscire una maggioranza favorevole all'austerity, non ci saranno problemi, ma se invece dovesse vincere un fronte di sinistra radicale guidato da Syriza, come indicano gli ultimi sondaggi, allora occorrerebbe rinegoziare il memorandum, cosa che il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble rifiuta. Il braccio di ferro potrebbe condurre Atene ad uscire addirittura dall'euro, con effetto domino su tutti gli altri paesi mediterranei. Se invece il presidente francese François Hollande riuscirà a convincere la Merkel ad ammorbidire l'austerity, allora Atene potrebbe restare nella moneta unica e rivedere la luce del tunnel dopo 5 anni di recessione. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Atene. E ora in Francia, Jean-Marc Ayrault, nominato ieri primo ministro dal nuovo presidente francese François Hollande, ha assunto ufficialmente l'incarico questa mattina dopo la cerimonia di passaggio dei poteri con il suo predecessore François Fillon nel cortile di Matignon. Oggi pomeriggio il neo premier rivelerà la lista dei ministri del suo governo. Abbiamo sentito in apertura le parole di Mario Monti poco fa, e adesso ancora in corso la conferenza stampa con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale. Per Monti oggi giornata fitta di impegni, ci sarà un vertice con il PDL, con Berlusconi, tasse e giustizia probabilmente i temi che saranno toccati. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, un pranzo per pacificarsi dopo i distinguo delle amministrative e lo screzio sul beauty contest riguardo alle frequenze TV. Il tanto atteso giorno arrivato, Silvio Berlusconi sarà ricevuto dal premier Mario Monti a Palazzo Chigi a pranzo, presenti anche Angelino Alfano e Gianni Letta. Il PDL alle prese con la ricerca di un candidato nuovo che possa avere più appeal di Alfano, ma Fabrizio Cicchitto smentisce piani segreti concernenti la riorganizzazione politica del centrodestra. Intanto l'opposizione interna PDL guidata da Ignazio La Russa contesta invece il pranzo di Berlusconi Monti a pochi giorni dai ballottaggi. Intanto il partito dell'ex premier, combatte sul fronte parlamentare soprattutto sulla giustizia. Dopo l'ostruzionismo al DDL corruzione in commissione giustizia a Montecitorio e l'emendamento contento al falso in bilancio che salva gli imprenditori, il presidente della commissione Giulia Bongiorno lancia l'allarme: la maggioranza è spaccata, ci sono rischi per il governo. Stamattina poi rinviata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, chiamata a pronunciarsi sull'insindacabilità di Silvio Berlusconi, citato per diffamazione dal patron di Tiscali, Renato Soru. Motivo del rinvio di cortesia all'assenza dei deputati del PDL. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Dopo i fatti di Genova, la gambizzazione di Roberto Adinolfi, il dirigente dell'Ansaldo, il ministro dell'Interno Cancellieri aveva detto che a preoccupare erano soprattutto i movimenti legati alla protesta contro la TAV. Adesso però il centro sociale, cuore di questa protesta in Val di Susa, prende le distanze dagli anarchici e dalla violenza, mentre a dire che gli anni di piombo non torneranno è anche un esperto di terrorismo come il giudice Armando Spataro. Il servizio e poi il commento di Daniele Biacchessi. Una lunga serata di discussione, poi la presa di posizione netta, sprezzante, ascata su un centro sociale divenuto il vero cuore politico della protesta in Val di Susa, prende le distanze dagli attentatori di Genova in modo duro, chiudendo la porta a chi pensava di fare proseliti tra le fila della protesta NOTAV. Autistici, narcisisti, nichilisti, vittime dei metodi di spettacolarizzazione dei media, gente che si guarda all'ombelico pensando di fare altro e magari se lo guarda in televisione. Così vengono definiti in un documento gli autori dell'attentato al dirigente Ansaldo ad Inolfi. Per il centro sociale l'eco del gesto di Genova può essere usato contro le vere lotte. Di fronte all'attentato il procuratore Armando Spataro invece sottolinea di non credere ad un ritorno degli anni di piombo. Sarei molto prudente, dice il magistrato esperto di antiterrorismo, nel lanciare allarmi circa un possibile ritorno al passato. Per Spataro non solo vi è un contesto storico molto diverso, ma la violenza terroristica non ha più la stessa capacità di aggregazione di un tempo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le analisi e i commenti sul presunto ritorno di un nuovo terrorismo fanno capire quanto ci sia ancora di inesatto ed impreciso nella comprensione di ciò che va sotto il nome di anni di piombo. Da giornalisti, scrittori e soprattutto uomini delle istituzioni, della politica, non si sprecano giudizi avventati, superficiali, tranchant, privi del pur minimo nesso storico tra passato e presente. Dunque, riepiloghiamo. È accaduto che a Genova una presunta cellula anarco-insurrezionalista avrebbe rivendicato con un confuso documento il ferimento di Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare. È inoltre accaduto che a Milano, durante il processo contro i militanti della cosiddetta seconda posizione brigatista, si siano riviste scene di un brutto film con imputati che dal gabbio affermavano che la violenza è inevitabile. Forse un po' di memoria fa bene a questo paese. Gli anni 70 non potranno mai più tornare, come sostiene il magistrato Armando Spataro, perché diverse e inimitabili sono le condizioni che fecero nascere le organizzazioni della lotta armata nel nostro paese, e i numeri e le cifre dimostrano che dal 1969 al 1989 oltre 4.000 persone vennero condannate per fatti gravi e riconducibili alla lotta armata, che sempre in quel periodo i morti per i fatti di terrorismo rosso furono 127 e i ferimenti oltre 1.000. Si stima che un'area di almeno 100.000 persone interloquiva con i terroristi o ne giustificava le azioni. Ma per le sole stragi riconducibili alla destra eversiva, quelle della strategia della tensione, i morti salirono oltre 400 e più di 3.000 i feriti. Cosa è invece accaduto dall'89 ad oggi? Gli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi, del brigatista Mario Galesi e del poliziotto Emanuele Petri. Le cellule tosco-laziali delle BR e PCC sono state tutte smantellate nel 2003 e i componenti non arrivavano alla ventina. Il gruppo della seconda posizione smantellato nel 2007 dal giudice Salvini e dal PM Boccassini era formato da una trentina di persone. E i presunti anarchici, quanti sono in realtà? Quali contatti hanno con il movimento antagonista dopo la durissima presa di posizione dei centri sociali che li definiscono oggi autistici, narcisistici e soprattutto loro nemici? GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato delle parole del Premier Mario Monti: il governo è vicino ai dipendenti pubblici che rischiano di fronte alle proteste dei cittadini, ha detto, e sulla fase 2 ha specificato Monti: siamo ancora in emergenza. Indagato Umberto Bossi dalla Procura di Milano con l'accusa di truffa ai danni dello Stato. Poi borse in calo, spread di nuovo alto sui timori europei per quanto riguarda la Grecia, sotto pressione però anche Italia e Spagna. Adesso le altre notizie. A cominciare dal processo a Ratko Mladic, iniziato oggi alla Corte Penale dell'Aia. Sentiamo. 20 anni dopo lo scoppio del conflitto nell'ex Jugoslavia, la Corte Penale Internazionale processa il boia dei Balcani. È partita oggi all'Aia la prima udienza contro il 70enne Ratko Mladic, capo delle truppe serbe accusate della pulizia etnica contro bosniaci musulmani e croato-bosniaci. Su Mladic pendono 11 capi d'accusa, tra cui 2 imputazioni di genocidio per il massacro di Srebrenica nel 95 e per l'assedio di Sarajevo partito nel 1992. Mostreremo le prove della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, ha affermato il procuratore Dermot Groom. Per risposta, l'ex militare serbo in aula si mostra sarcastico, sia verso le famiglie delle 8.000 vittime di Srebrenica che assistono al procedimento, sia verso la corte. Nessun segno di pentimento, nessuna ritrattazione. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sin qua la cronaca, adesso in studio con noi Gigi Donnelli per fare una piccola riflessione. 20 anni sono passati, sono tanti, ma non è mai troppo tardi, no Gigi? Assolutamente no, 20 anni esatti da quando appunto Mladic ottenne il comando delle operazioni della Jana, l'ex esercito jugoslavo, su Sarajevo. La sua prima iniziativa fu il bombardamento delle strade d'accesso alla città per iniziare quello che sarebbe stato il più lungo assedio dell'Europa moderna. 20 anni che cascano, e a volte la sorte è davvero bizzarra, tra i due turni delle presidenziali in Serbia. Insomma, questo processo che si svolge lontano in un paese appunto del nord Europa tocca direttamente gli spiriti, gli animi dei Balcani. Il presidente Tadic, ricandidato per la terza volta, il suo avversario Nikolic si accusano vicendevolmente di brogli, ma intanto la tensione all'interno del paese monta proprio intorno alla memoria di questi 20 anni. Ricordate, Mladic è stato dato di fatto dal governo serbo un anno fa all'Unione Europea, una consegna che ha aperto la strada all'accesso della Serbia all'Unione Europea. Quindi tutti questi temi si legano strettamente. Sulla figura di Mladic ci sarebbe poco da dire. Mladic è un assassino, è un uomo che come gerarchi nazisti risponde sistematicamente: ho ricevuto degli ordini. Eppure insomma le prove sono enormi. Il problema è che alcuni milioni di serbi in realtà lo ritengono un eroe, e quindi bisogna tenere conto di questa realtà e di questa complessità. Grazie a Gigi Donnelli. Chiudiamo qua invece questa pagina e parliamo di tutt'altro. Con la cronaca ci spostiamo in Italia. C'è un nuovo indagato che per quanto riguarda Finmeccanica. Oggi tra l'altro c'è anche l'assemblea degli azionisti, la notizia è emersa proprio in queste circostanze. L'indagato è Franco Bonferroni, consigliere di amministrazione. Ci colleghiamo con l'assemblea degli azionisti di Finmeccanica, dove c'è Massimiliano Zampini. Massimiliano. Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, assemblea dal clima teso evidentemente, soprattutto per quello che è successo a Genova pochi giorni fa, cioè il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Dinolfi. La vicenda è stata citata più volte durante l'assemblea da diversi azionisti che hanno espresso la loro solidarietà, fatta proprio evidentemente dal management del gruppo. Azionisti che hanno però puntato anche l'indice molto sui media, dicendo che il clima che si è creato per le note vicende giudiziarie intorno a Finmeccanica ha in qualche modo dato un'immagine del gruppo un po' distorta. Questa è una, diciamo, una valutazione che lasciamo così, insomma, ecco, che è stata fatta durante l'assemblea. E clima un po' pesante anche perché c'è molto, molto servizio d'ordine intorno a questa assemblea, le misure di sicurezza rafforzate intorno al top management di Finmeccanica, il numero uno che oggi è arrivato scortato qui in assemblea, e due cellulari dei carabinieri che vigilano sullo svolgimento della stessa, che comunque naturalmente si sta svolgendo nel pieno, in piena tranquillità. Il tutto sullo sfondo di un gruppo scosso dalle note vicende giudiziarie che arriva da un anno chiuso con una perdita shock da 2,3 miliardi di euro. Grazie a Massimiliano Zampini, collega di Radio Coro Il Sole 24 Ore, per questi aggiornamenti sull'assemblea Finmeccanica. La notizia, ripetiamo, è indagato il consigliere Franco Bonferroni, un'assemblea però che si è tenuta, come avete sentito, sotto particolari misure di sicurezza dopo quel che è accaduto a Genova la settimana scorsa. Stanno terminando in questi minuti nelle scuole superiori italiane i cosiddetti test Invalsi tra le proteste. Però l'Unione degli Studenti insieme a Cobas e ANIEF infatti ha annunciato un boicottaggio di queste prove che mettono sotto esame la scuola italiana. Marcello Pacifico, presidente dell'ANIEF, sentiamolo al microfono di Anna Migliorati. Futuro, le risorse alle scuole non saranno date più in base al numero degli utenti, ma saranno date in base al risultato che raggiunge la scuola in base a proprio queste sperimentazioni, che oggi non sono più sperimentazioni e sono diventate prove obbligatorie quelle di Invalsi. Allora che cosa andrà a succedere? Succederà che magari scuole che hanno la sfortuna di trovarsi in quartieri disagiate, in zone disagiate, si troveranno svantaggiati, non avranno risorse e quindi dovranno chiudere a favore di altre scuole dove, tra virgolette, si ritiene che oggettivamente si sia misurato questo grado di questo risultato raggiunto con le prove Invalsi. La replica questa mattina, prima edizione, del commissario straordinario degli Invalsi, Paolo Sestito. Le prove cercano di valutare il livello degli apprendimenti e delle competenze degli alunni,